2. Ascolta e ripeti. Ma avete scattato qualche foto? Sì, Michele ha scattato foto e ha fatto dei video. Però, a dire la verità, non abbiamo mai rivisto nessun video. Come? Sì, sì, è vero. In ogni vacanza abbiamo ripreso le città, gli spettacoli, i paesaggi più caratteristici. Poi non abbiamo mai rivisto le immagini. E perché? Ma chissà. Forse perché dopo qualche anno abbiamo paura di essere invecchiati, ingrassati. Ma scherzi! Che sciocchezza! Senti, siete liberi sabato? Sì, perché? Ho sentito alla radio la pubblicità di un nuovo ristorante. Ci vorrei andare. Possiamo cenare lì e passare un po' di tempo insieme. Buona idea. Perfetto. Allora prenoto per 4. Sì, benissimo. Anche io ho scoperto da poco tempo un posto che non conoscevo. Un piccolo teatro dove recitano giovani attori. Dopo cena possiamo andare a teatro. O se preferisci, possiamo guardare i video delle nostre vacanze. No, no, andiamo a teatro.